La verità è che in realtà siamo tutti fratelli. Sì, siamo fratelli. Tutti figli di un unico grande amorevole padre. O di una madre per le femministe. Siamo tutti figli del Signore. Una volta chiesi al Signore di accendere la luce e Lui me l'accese. Questo vuol dire che la verità è che dobbiamo accendere quello che è in noi. In verità, tutti noi dobbiamo dar vita alla scintilla che ci porterà all'accensione. Diamo fuoco ai nostri valori. Buttiamo quella scatola delle immagini in movimento. Quella si usa una volta, ora c'è l'internet. Ci sono migliaia di altri modi per bruciarci il cervello in maniera più attiva e diretta. Perché combattere un sistema corrotto e capitalista scendendo in piazza a manifestare, scioperando e utilizzando il voto come arma di difesa, quando posso comodamente manifestare il mio dissenso seduto sulla mia scrivania condividendo un link di Facebook. Quindi forza, accendiamo quello che è in noi per poi passare a quello che è attorno a noi. Perché la verità del Signore si estende ad ogni cosa. Bruciamo la nostra casa, i nostri cari, i nostri soldi. La verità è che tutto deve andare a fuoco. Questa è la verità. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just